Vangelo di San Giovanni, capitolo quarto. Quando dunque il Signore ebbe saputo che i farisei avevano udito che egli faceva e battezzava più discepoli di Giovanni, quantunque non fosse Gesù che battezzava ma i suoi discepoli, lasciò la Giudea e se ne andò di nuovo in Galilea. Or doveva passare per la Samaria. Giunse dunque a una città della Samaria chiamata Sicar, vicina al podere che Giacobbe dette a Giuseppe suo figliuolo, e quivi era la fonte di Giacobbe. Gesù dunque, stanco del cammino, stava così a sedere presso la fonte. Era circa l'ora sesta. Una donna samaritana venne ad attingere l'acqua. Gesù le disse: «Dammi da bere», giacché i suoi discepoli erano andati in città a comprare da mangiare. Onde la donna samaritana gli disse: «Come mai, tu che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana?» Infatti i giudei non hanno relazione con i samaritani. Gesù rispose e le disse: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è che ti dice «dammi da bere», tu stessa gliene avresti chiesto, ed egli ti avrebbe dato dell'acqua viva». La donna gli disse: «Signore, tu non hai nulla per attingere, e il pozzo è profondo. Donde hai dunque cotest'acqua viva? Sei tu più grande di Giacobbe, nostro padre, che ci dette questo pozzo e ne beve egli stesso coi suoi figliuoli e il suo bestiame?» Gesù rispose e le disse: «Chiunque beve di quest'acqua avrà sete di nuovo, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna». La donna gli disse: «Signore, dammi di cotest'acqua affinché io non abbia più sete e non venga più sin qua ad attingerne». Gesù le disse: «Va a chiamare tuo marito e vieni qua». La donna gli rispose: «Non ho marito». E Gesù: «Hai detto bene, non ho marito, perché hai avuto cinque mariti, e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto il vero». La donna gli disse: «Signore, io vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte, e voi dite che a Gerusalemme è il luogo dove bisogna adorare». Gesù le disse: «Donna, credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quel che non conoscete. Noi adoriamo quel che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, poiché tali sono gli adoratori che il Padre richiede. Iddio è spirito, e quelli che l'adorano bisogna che l'adorino in spirito e verità». La donna gli disse: «Io so che il Messia, che è chiamato Cristo, ha da venire. Quando sarà venuto ci annunzierà ogni cosa». Gesù le disse: «Io che ti parlo, son d'esso». In quel mentre giunsero i suoi discepoli e si meravigliarono che egli parlasse con una donna, ma pur nessuno gli chiese che cerchi o perché discorri con lei. La donna lasciò dunque la sua secchia e se ne andò in città e disse alla gente: «Venite a vedere un uomo che m'ha detto tutto quello che ho fatto. Non sarebbe egli il Cristo?» La gente uscì dalla città e veniva a lui. Intanto i discepoli lo pregavano dicendo: «Maestro, mangia!» Ma egli disse loro: «Io ho un cibo da mangiare che voi non sapete». Perciò i discepoli si dicevano l'un l'altro: «Forse qualcuno gli ha portato da mangiare?» Gesù disse loro: «Il mio cibo è di fare la volontà di colui che mi ha mandato e di compir l'opera sua. Non dite voi che ci sono ancora 4 mesi e poi viene la mietitura? Ecco io vi dico, levate gli occhi e mirate le campagne come già son bianche da mietere. Il mietitore riceve premio e raccoglie frutto per la vita eterna, affinché il seminatore e il mietitore si rallegrino assieme, poiché in questo è vero il detto, l'uno semina e l'altro miete. Io vi ho mandati a mieter quello intorno a cui non avete faticato. Altri hanno faticato e voi siete entrati nella loro fatica. Or molti dei samaritani di quella città credettero in lui a motivo della testimonianza resa da quella donna. Egli m'ha detto tutte le cose che ho fatte. Quando dunque i samaritani furono venuti a lui, lo pregarono di trattenersi da loro, ed egli si trattenne quivi 2 giorni. E più assai credettero a motivo della sua parola, e dicevano alla donna, «Non è più a motivo di quel che tu ci hai detto che crediamo, perché abbiamo udito da noi, e sappiamo che questi è veramente il Salvatore del mondo». Passati quei 2 giorni, egli partì di là per andare in Galilea, poiché Gesù stesso aveva attestato che un profeta non è onorato nella sua propria patria. Quando dunque fu venuto in Galilea, fu accolto dai Galilei perché avevano udite tutte le cose che egli aveva fatte in Gerusalemme alla festa, poiché anch'essi erano andati alla festa. Gesù dunque venne di nuovo a Cana di Galilea, dove aveva cambiato acqua in vino. E v'era un certo ufficiale reale, il cui figliuolo era infermo a Capernaum. Come egli ebbe udito che Gesù era venuto dalla Giudea in Galilea, andò a lui e lo pregò che scendesse e guarisse il suo figliuolo, perché stava per morire. Perciò Gesù gli disse, «Se non vedete segni e miracoli, voi non crederete». L'ufficiale reale gli disse, «Signore, scendi prima che il mio bambino muoia». Gesù gli disse, «Va, il tuo figliuolo vive». Quell'uomo credette alla parola che Gesù gli aveva detta e se ne andò. E come già stava scendendo, i suoi servitori gli vennero incontro e gli dissero, «Il tuo figliuolo vive». Allora egli domandò loro a che ora avesse cominciato a star meglio, ed essi gli risposero, «Ieri, all'ora settima, la febbre lo lasciò». Così il padre conobbe che ciò era avvenuto nell'ora che Gesù gli aveva detto, «Il tuo figliuolo vive», e credette lui con tutta la sua casa. Questo secondo miracolo fece di nuovo Gesù, tornando dalla Giudea, in Galilea.